sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Stop agli aumenti dei pedaggi dal Consiglio di Stato, ma non vale per tutta Italia. I consumatori chiedono indietro i soldi. In Francia una sentenza riapre la vicenda a Roma, illegittima l'espulsione, dice un giudice. Obama chiude senza trionfi la guerra in Iraq e sulla pace in Medio Oriente già all'ombra di un attentato. Napolitano a Venezia, ottimista sulla crisi d'estate, si va verso una soluzione benigna. Buongiorno dalla redazione, ancora buongiorno da Anna Migliorati. Illegittimo l'aumento dei pedaggi su autostrade, strade ANAS deciso in finanziaria. È arrivata questa mattina la sentenza definitiva dal Consiglio di Stato, ma lo stop agli aumenti potrebbe non valere per tutti. E intanto parlano le associazioni dei consumatori che insorgono. Che succede? Allora andiamo a Roma da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Prime prese di posizione dunque dopo lo stop del Consiglio di Stato a quanto fissato dalla manovra correttiva. A muoversi sono le associazioni in difesa dei consumatori, in particolare il Codacons chiede che agli automobilisti siano restituite le maggiori somme pagate ai caselli. Si tratterebbe, secondo il Codacons, di ben 8 milioni di euro. Qualora non ci fosse questa restituzione, viene spiegato, si configurerebbero veri e propri reati a danno degli utenti. Le associazioni dei consumatori mettono poi le mani avanti ed annunciano se il governo aggirerà la decisione del Consiglio di Stato con un apposito decreto ci rivolgeremo alla Procura della Repubblica. Tornando poi alla sentenza del Consiglio di Stato che blocca gli aumenti dei pedaggi autostradali e di quelli sui raccordi gestiti dall'ANAS, è bene precisare che l'indicazione non riguarda tutto il territorio nazionale, ma solo le province di Roma, Pescara e Rieti. Sono stati infatti questi enti a rivolgersi al TAR del Lazio, che proprio il 29 luglio intervenne bloccando gli aumenti scattati il primo dello stesso mese. Soddisfatti gli amministratori locali coinvolti, il sindaco di Roma Alemanno Aus che vengano riviste le tariffe, le nostre argomentazioni erano giuste, dice il presidente della provincia di Roma, Zingaretti. È tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta, naturalmente torneremo sulla vicenda nel corso della giornata. Andiamo ora invece all'Aquila, 7 scosse nelle ultime 24 ore nella zona dei Monti Reatini, c'è ora paura nelle zone colpite dal terremoto 2 anni fa, dove questa notte molti hanno dormito fuori casa. C'è molta paura, soprattutto nella zona della città territorio, dei comuni vicini, nella zona ovest, nella zona dell'Alto Aterno. Le scosse sono ricominciate. In realtà le scosse non sono mai finite, ma da 36 ore a questa parte, racconta il sindaco dell'Aquila, la terra trema di più e con più intensità. Paure già vissute e mancanze non ancora sanate, come i punti di raccolta in alcune frazioni. Massimo Cialente, che si ritrova agli operai a lavorare nel centro storico, ha preferito correre ai ripari e così la città resta chiusa fino alle 6 di venerdì. Ieri mattina io avevo 1500 operai nel centro storico, più quelle delle frazioni che stanno lavorando, quindi erano ad altissimo rischio. Per ora, per 48 ore, ho sospeso questi cantieri, ho richiuso il centro storico, adesso sto procedendo di nuovo a dei controlli. Le istituzioni sono in allerta, ieri vertice in prefettura, l'esperienza del 6 aprile sta aiutando, ma alla paura si aggiunge il rammarico. Accentuazione che stiamo registrando purtroppo stanno anche incidendo nel momento in cui la città stava cominciando a vedere un minimo di luce in fondo al tunnel e si stava ricreando un po' di aspettative, e chiaramente questa cosa ci sta un po' fermando. Valeria De Rosa, GR24, il sole 24 ore. Sulla ripresa dello sciame sismico tra Abruzzo e Lazio abbiamo sentito il parere di Giampaolo Calvinato dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR. L'ho intervistato Valeria De Rosa. Bisogna capire bene che cosa è legato a questo riacutizzarsi degli eventi in quell'area, che poi è sempre più o meno l'area che sarà interessata al terremoto del 6 aprile del 2009. Dipende tutto che cosa sta avvenendo sotto a quella profondità, se è semplicemente un rilascio di una certa energia, e a quel punto magari tutta questa serie di scosse minori segnalano di fatto la diminuzione dell'energia che viene liberata. Ci auguriamo che non succeda invece un terremoto più forte, ma questo nessuno lo può prevedere. Togliamoci dalla testa la possibilità di dirlo con anticipo. Sono dei segnali che mostrano una forte instabilità all'interno della crosta in alcuni settori che ogni tanto si manifestano, ma purtroppo questi segnali non sono sufficienti al momento per dirci in quella determinata area ci potrà essere un forte terremoto. In Francia una sentenza riapre la vicenda Rom, la vicenda dei Rom espulsi dal paese tra le contestazioni per decisione del governo Sarkozy. Illegittima l'espulsione, ha deciso un giudice pronunciandosi su un ricorso presentato da un gruppo di nomadi e che ora potrebbe riaprire la questione. Ambra Notari ha sentito l'avvocato che ha presentato il ricorso, Norbert Clement. Ad oggi non sono stati riscontrati motivi legali validi che giustifichino il rimpatrio di queste persone. La sola infrazione riscontrata è l'occupazione illegale di un territorio per la quale è prevista solo una multa. Tra i circa 200 rimpatri avvenuti dopo il 17 agosto sarebbero numerosi i casi simili in cui il rimpatrio non sarebbe legale. Sono casi che verranno valutati. La fortuna di queste persone è stata quella di trovare enti e tribunali disposti ad aiutarli subito. Il prefetto aveva dato loro 48 ore di tempo per fare ricorso. Vista la situazione, non hanno avuto la prontezza di spirito di appellarsi al tribunale amministrativo. Se non fossero intervenuti questi enti, i Rom sarebbero stati ricondotti alla frontiera, in base però a un'accusa illegale che non avrebbero però fatto in tempo a contestare legittimamente. Domani, il giorno della ripresa dei negoziati di pace tra israeliani e palestinesi a Washington, e oggi intanto c'è stato un attentato. Israele è pronto a cedere parti di Gerusalemme in nome della pace con i palestinesi. Lo dice con ottimismo il ministro della difesa Ehud Barak al quotidiano israeliano Haaretz. In effetti questi colloqui sono politicamente utili al ministro della difesa, che molti davano per finito dopo la pessima gestione del caso della nave turca dei pacifisti diretta a Gaza. Ad Amman il ministro laburista ha incontrato segretamente il presidente palestinese Abu Mazen per preparare i negoziati di pace. Gerusalemme Ovest, nonché 12 rioni ebraici edificati ad est, dove abitano 200.000 ebrei, saranno nostri, ha detto Barak. I rioni arabi di Gerusalemme Est, dove vivono quasi 250.000 palestinesi, saranno loro. Situazione più complicata per la città vecchia, il Monte degli Ulivi e la città di Davide, per i quali sarà necessario definire uno statuto speciale e accorgimenti concordati. Barak, che era primo ministro nel 2000 quando a Camp David fallì il vertice israelo-palestinese con Yasser Arafat, sostiene che oggi esiste un'occasione vera per un successo. Ma sui colloqui tra Netanyahu e Abu Mazen peserà l'ombra degli integralisti islamici di Hamas, che hanno rivendicato l'attentato contro i coloni a Hebron, condannato nel modo più forte possibile dalla Casa Bianca. Cristina Balotelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Ieri sera intanto ha parlato Obama. From this desk, 7.5 years ago, President Bush announced the beginning of military operations in Iraq. Con un messaggio rivolto alla nazione, lo sentite, pieno d'orgoglio ma privi di toni trionfalistici. Nella nota italiana, il presidente americano ha di fatto chiuso la campagna militare statunitense in Iraq. Le truppe americane si ritireranno dal paese entro la fine dell'anno, 7 anni dopo, l'avete sentito, la seconda guerra del Golfo che portò alla caduta del regime del dittatore iracheno Saddam Hussein. Ma molto lavoro resta da fare, ha sottolineato Obama nel suo discorso. Torneremo a parlarne anche in America 24 alle 13.45. Ma intanto andiamo proprio in Iraq da Alberto Negri. Buongiorno Alberto, lì come sono arrivate le parole di Obama? Ma sono arrivate insieme a una visita sorpresa del ministro della difesa americano Robert Gates, che oggi è arrivato qui in Iraq per ribadire quello che ha detto Obama, e ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono più in guerra. Gli Stati Uniti non sono più in guerra, ma l'Iraq non è ancora pacificato, evidentemente. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi, cioè un paese che aspetta ancora la sua stabilità. Non c'è un governo 6 mesi dopo le elezioni e si continua a morire negli attentati. Cosa cambia da oggi nelle strade di Baghdad? Si respira un'aria diversa? Ma soprattutto è già cambiato qualche cosa da diverse settimane, da diverso tempo, ma c'è una cosa evidente per tutti, sono gli iracheni oggi che hanno in mano la sicurezza, sono loro che stanno ai checkpoint di tutte le strade, di tutti gli incroci della città, ma anche sulle strade che portano fuori da Baghdad. È a loro che tocca oggi prendere in mano il destino del paese. Gli Stati Uniti lasciano qui 50.000 uomini affiancati tra l'altro dalle teste rasate dei contractors, cioè delle guardie private, ma non con compiti di combattimento. Il vero problema però, oltre alla sicurezza evidentemente, è quello politico. Se i politici iracheni non riescono a mettersi d'accordo, sarà difficile che questo paese trovi una via di uscita. Il fatto che gli americani si siano ritirati mette di fronte i politici iracheni anche le loro responsabilità. Grazie ad Alberto Negri. E stanno arrivando in queste ore via via i primi dettagli del libro dell'ex premier britannico Tony Blair, libro di memorie pubblicato oggi. Non mi pento, scrive Blair tra l'altro, della decisione di affiancare gli Stati Uniti nella guerra in Iraq. E c'è un altro stralcio pubblicato poco fa del suo libro: senza l'aiuto di Silvio Berlusconi Londra non avrebbe mai potuto vincere le Olimpiadi del 2012, così scrive Tony Blair. Veniamo in Italia, visita privata a Venezia questa mattina per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Si è parlato di politica, Gerardo Pelosi. Sì, si è parlato di politica, di economia, indirettamente anche di giustizia, del DDL sul processo breve. Da parte del Quirinale c'è una porta sbarrata per il momento a ogni ipotesi di trattativa, nessun avallo preventivo, quindi nessuna trattativa sul disegno di legge già approvato dal Senato e in corso di approvazione alla Camera e sul quale i finiani intendono e hanno già promesso battaglia. Napolitano ha detto tante volte, ho spiegato qual è la nostra posizione, posizione del Quirinale, che quindi non interviene sulle leggi in discussione, ma ha detto anche Napolitano, vi ricordate che fine ha fatto la legge sulle intercettazioni? È finita su un binario morto, praticamente la stessa fine che si preconizza, che il Presidente della Repubblica preconizza anche per il processo breve. Massima incertezza per quanto riguarda la politica e l'economia, un'ipotesi di interruzione della legislatura, non faccio previsioni, ha detto Napolitano, perché quando accade qualcosa che coinvolga direttamente le mie decisioni, solo allora rifletto e adotto decisioni. Per quanto riguarda l'economia, certo la manovra è stata approvata, dovrà essere approvata la legge finanziaria, si deve valutare attentamente qual è la congiuntura mondiale, europea e nazionale. E ovviamente i segnali positivi della Germania sono un fattore di ottimismo che però non rappresentano un elemento trainante per l'economia europea. Il problema è di come si deve muovere l'Europa come soggetto unitario per affrontare la crisi. Di questi temi Napolitano parlerà con un messaggio sabato prossimo al meeting di Cernobbio. E da Venezia è tutto. Grazie a Gerardo Pelosi. Intanto a Roma le trattative politiche vanno avanti e sembra farsi corpo il possibile rinvio a novembre, quindi tra due mesi, del collegio dei provviviri del PDL, chiamato a pronunciarsi per la sospensione di tre deputati di Futura Libertà, Bocchino, Granata e Briguglio. Una carta che Silvio Berlusconi mette sul tavolo come segnale distensivo in attesa del discorso di Gianfranco Fini a Mirabello. Questa è stata una mattinata di incontri per il premier Berlusconi, che ha visto tra l'altro il presidente della Commissione Finanze del Senato Mario Baldassarri, considerato vicino a Gianfranco Fini. Dicevamo, Napolitano è a Venezia e a Venezia si apre oggi la mostra del cinema. Budget ridotto, feste più sobrie, ma subito arriveranno le grandi star hollywoodiane. La mostra di Venezia si apre alle 19. Primo film Black Swan di Darren Aronofsky, thriller sul mondo della danza che porta Lido, Natalie Portman, Winona Ryder e Vincent Cassel. A movimentare il primo giorno ci sono anche Jessica Alba e Michelle Rodriguez, la coppia sexy di Machete, fuori concorso a mezzanotte. Gli spettatori della sala grande aspettano anche Robert De Niro, anche lui protagonista del film di Robert Rodriguez. Ad aprire le giornate degli autori, Venice Days, la prima mondiale di un corto, l'ultima opera di Jafar Panahi, il regista incarcerato per settimane dal regime iraniano. Primo italiano in corsa, Ascanio Celestini, in anticipata stampa questa sera, domani invece in proiezione ufficiale. E sono solo i primi film. Le opere in prima mondiale saranno 79, 24 in corsa per il Leone d'Oro. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore, Venezia. 13:17 minuti, GR24, le notizie di oggi. In primo piano, stop agli aumenti dei pedaggi autostradali e ANAS. È arrivato lo stop dal Consiglio di Stato, ma non vale per tutta Italia, solo per i comuni che hanno presentato ricorso. I consumatori chiedono ora indietro i soldi, 8 milioni di euro. In Francia una sentenza potrebbe riaprire la vicenda dei Rom, illegittima l'espulsione, dice un giudice che si è pronunciato su un caso specifico. Obama chiude senza trionfi la guerra in Iraq nel discorso nella notte italiana, e sulla pace in Medio Oriente intanto c'è già l'ombra di un attentato. Napolitano a Venezia, ottimista sulla crisi d'estate, si va verso una soluzione benigna, dice. Ma riprendiamo con la vicenda di Sara Scazzi, la ragazzina di 15 anni scomparsa da Avetrana in Puglia nel primo pomeriggio ormai del 26 agosto scorso. È il settimo giorno di ricerche. A questo punto i carabinieri ritengono seria l'ipotesi che la ragazza sia stata sequestrata e battono con particolare attenzione la pista che porta agli amici di Sara. Si tratterebbe di ragazzi più grandi della quindicenne. Sul movente dell'ipotetico sequestro gli investigatori non si sbilanciano. Parla intanto la famiglia, Sabrina Misseri, la cugina, parla così a Radio 24. C'è ancora niente, perché si prendono tutte le piste, però come indizio non c'è niente ancora. Vi siete fatti qualche idea? Cosa pensate? La cosa che è sicura è che l'hanno presa, che è stata rapita, l'hanno rapita. Ipotesi se ce ne sono tante, ma alla fine bisogna vedere poi. C'era pure presa o stata presa? Perché non era una ragazza che dava confidenza, che veniva in macchina di persone che non conosceva. Certo, quindi insomma siete sicuri che non si sia allontanata, no, di sua sì, volontà? Sì, quello sono sicurissimo. Manca perché poi in camera non manca niente. Si è convertito Gianfranco Stevanin, ricorderete il pluriomicida condannato all'ergastolo per 6 omicidi a sfondo sessuale. Ha deciso di vestire l'abito francescano. È considerato il serial killer più pericoloso che abbia agito in Italia tra il 1989 e il 1994. Ora Gianfranco Stevanin, conosciuto come il mostro di Terrazzo, vorrebbe diventare frate. A riportare la notizia al quotidiano Libero. È come se lo Spirito Santo mi avesse rivoltato al suo interno come un guanto, ha dichiarato l'uomo condannato all'ergastolo per l'omicidio di 6 donne. Stevanin finisce in cella il 16 novembre del 1994 per lo stupro di una prostituta austriaca riuscita a scappare dalla sua auto. Sono le indagini e il ritrovamento di 6 corpi fatti a pezzi nelle campagne intorno a Terrazzo, paese del Basso Veneto, a mettere in luce il profilo di un pericoloso omicida seriale. Stevanin vorrebbe diventare frate come francescano laico nel terzo ordine regolare di San Francesco. Per stabilire l'autenticità della sua vocazione, l'uomo sarà seguito in cella, nel carcere di Opera, da un frate vocazionista. Sento il bisogno di dare una direzione alla mia vita disordinata, e sapere che la Chiesa non mi chiuderà le porte è una notizia bellissima. Marco Subert, GR24, Il Sole 24 Ore. A Messina sono cominciati questa mattina gli interrogatori dei medici coinvolti nella lite in sala parto. Ho fatto tutto quello che bisognava fare essendo medico di guardia, dice uno dei medici coinvolti. Sentiamolo. Sono profondamente dispiaciuto per quanto è accaduto e soprattutto per l'immagine del policlinico dell'azienda universitaria, che non merita questo trattamento per tutto quello che succede, il lavoro dei colleghi, personale medico e paramedico. Non c'è mai stato uno scontro fisico tra me e il dottore De Vivo, e questo comunque, a quanto riferito da varie fonti e nei giorni precedenti, non è mai avvenuto in sala parto o in sala travaglio. Il dottore De Vivo era soltanto, bisogna anche comunque verificare questa verità, titolare di un assegno di ricerca che gli vieta assolutamente iniziative di tipo assistenziale. E queste sono le parole di Vincenzo Benedetto, che era appunto il medico di guardia in turno al policlinico di Messina. E intanto nello stesso ospedale questa mattina c'è stata anche un'ispezione dei NAS. Un faldone con foto, indicazioni dettagliate dello stato di degrado in cui verserebbero alcune aree del policlinico di Messina e quanto è arrivato nell'ufficio dei NAS. La denuncia, firmata da un dipendente e da alcuni pazienti del policlinico, ha fatto scattare questa mattina controlli a tappeto in tutti i reparti del policlinico. Gli agenti starebbero ispezionando in particolare le cucine, dove sarebbero stati fotografati escrementi di gatto e scarafaggi. Si tratta dell'ultimo atto di una serie di vicende che hanno coinvolto la struttura messinese. Tra queste segnaliamo anche un lungo contenzioso tra il sindacato Orsa e la SR Ristorazioni. Si tratta dell'ultimo atto di una serie di vicende che hanno coinvolto la struttura messinese. Tra queste anche un lungo contenzioso tra il sindacato Orsa e la SR Ristorazioni. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Preapertura della caccia oggi e il 5 settembre in alcune regioni italiane con 19 giorni di anticipo rispetto all'apertura ufficiale la terza domenica di settembre, che quest'anno cade appunto il 19. In Molise il TAR ha di fatto bloccato la preapertura accogliendo il ricorso di alcune associazioni. Ancora vittime in Trentino tra i cercatori di funghi. Questa mattina i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita di due amici di Riva del Garda dispersi da ieri nei boschi sopra Tione. Il bilancio dei fungaioli morti per incidenti in Trentino è di 7 in 2 settimane. E si fa in qualche modo un bilancio anche delle vittime della strada. I morti sulle strade nei 5 fine settimana di agosto sono stati 118. È difficile dire che si tratta di una buona notizia, ma in effetti lo è. Gli incidenti stradali nel mese delle vacanze sono infatti calati del 5,4% rispetto al 2009. Il numero delle vittime è sceso del 10,6%, quello dei feriti del 10,8%. Purtroppo il rigore introdotto soprattutto nei confronti dei giovani non ha maturato gli effetti sperati. Tra gli under 30 i morti sono stati 50, uno in più rispetto allo scorso anno. Ma il dato peggiore è quello relativo all'incidentalità notturna, 52 le vittime del buio, un tragico 30% in più rispetto al 2009. Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, Associazione Amici della Polstrada, che ha elaborato i dati. Questa tendenza di una maggiore incidentalità notturna non è del mese di agosto, ma noi la osserviamo già da inizio anno, da gennaio. Vogliamo augurarci che non ci sia, diciamo, un certo rilassamento sull'utilizzo dell'alcol e soprattutto ci sia anche una forma di esasperazione e anche della stanchezza. Difficile trovare dei motivi plausibili dopo due anni nei quali eravamo andati abbastanza bene. È la velocità invece, nella gran parte dei casi, all'origine della mattanza tra i motociclisti. Se il dato degli incidenti sulle due ruote è migliorato questo agosto, 51 incidenti mortali contro i 57 del 2009, per i centauri in Italia si può parlare di carneficina, quasi 14.300 morti negli ultimi 10 anni. Intanto qui serve una forte comunicazione che spieghi bene che le strade di oggi non permettono errori. Poi dove non arriva quella comunicazione bisogna che arrivi lo Stato con la sua presenza, e chi non si convince deve lasciare la motocicletta da parte con sequestro e confisca con sanzioni molto pesanti. Si facciano delle piste, si trovi il modo di farle a costi meno cari e chi vuol correre va a correre là. Sulla strada ci siamo tutti. Roberta Pellegatta, GR24, Il Sole 24 Ore. Per il settore tecnologico è stato un agosto molto intenso con acquisizioni milionarie soprattutto negli Stati Uniti. Con il mese di settembre si attendono alcune novità per l'autunno, a partire da quelle che annuncerà questa sera il numero uno della Apple. Questa sera, ore 19 italiane, Steve Jobs tornerà sul suo palcoscenico preferito a San Francisco per annunciare nuovi prodotti marchiati con la mela morsicata. Secondo le indiscrezioni che da giorni circolano in rete, Apple potrebbe annunciare nuovi lettori MP3, ma soprattutto rilanciare il proprio impegno sul fronte video. Dopo gli scarsi successi della costosa Apple TV da $299, i rumors puntano su iTV, un dispositivo più economico per guardare contenuti digitali sul televisore attraverso il negozio virtuale iTunes, dove forse solo per gli Stati Uniti un programma televisivo a noleggio dovrebbe scendere a 99 centesimi. L'autunno dovrebbe poi portare altre novità per il mondo del cinema e della TV, perché anche Google sta lavorando per offrire un servizio globale di film in pay per view collegato a YouTube. In Europa gli occhi sono puntati anche a Berlino, dove venerdì inizia l'IFA, la più importante fiera dedicata all'elettronica di consumo. Nella stessa partita sono infatti impegnati pure i produttori di TV, che potrebbero diventare anche essi aggregatori e distributori di contenuti video attraverso le piattaforme installate sulle moderne TV LCD o plasma in grado di collegarsi ad internet. Enrico Pagliarini, GR24, Il Sole 24 Ore. Lo sport, cominciamo col calcio. Dopo la corsa a ritmo blando c'è stata anche la partitella per Antonio Cassano, che a questo punto sembra recuperato per Estonia-Italia di venerdì, prima gara dell'Italia nelle qualificazioni agli Europei 2012. L'attaccante della Sampdoria si è unito al resto degli azzurri al pari di Riccardo Montolivo e ha preso parte alla sfida in famiglia schierato in attacco con Giampaolo Pazzini e Quagliarella. Intanto i riflettori sono accesi sul nuovo Milan. Milan, Milan. Dopo anni di acquisti imbarazzanti e di velenose contestazioni, il Milan torna improvvisamente al centro della scena calcistica, recuperando il fossato che lo separava dall'Inter. Prima lo zingaro Ibrahimovic, poi l'estroso Robinho, un 1-2 che in 24 ore ha zittito tutta quella tifoseria che da tempo accusava Berlusconi, non a torto, di aver dimenticato la sua grande passione, il Milan, quella passione che con Van Basten, Gullit e Baresi gli aveva aperto la strada alla famosa discesa in campo nella politica. Come ho cambiato il Milan, cambierò anche l'Italia, tuonò il cavaliere ai tempi e chi non lo prese sul serio dovette presto ricredersi. Negli anni però il Milan, da museo di campioni, stava diventando museo delle cere, con l'Inter di Moratti sempre più vincente. Così Berlusconi, elezioni sì, elezioni no, è risalito sul carro del Milan. Il consenso passa anche da qui. Chissà se i suoi avversari, non solo quelli calcistici, lo sottovaluteranno anche questa volta. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E per parlare di calcio, alle 14 a Tempo di Sport, oggi c'è Gigi Garanzini. Tra poco invece Italia in controluce, GR24 termina qua alle 13:28 minuti. In regia Fabio Cantadori, ancora un saluto da Anna Migliorati. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.